9 in punto, la versione di Oscar. Padre infelice, corro a salvarti. Oh, almeno, corro a morire. Ecco almeno, corro a morire. Ecco almeno. Ecco almeno, corro a morire. Cari ascoltatori, direte voi, va bene che Sant'Ignazio di Loyola il 31 di luglio, però non iniziavi con i Doors, con Jim Morrison, a cui avevamo attaccato in queste ultime settimane, in cui Mario Draghi combatte per tenere in piedi l'Europa e fa abbassare gli spread, un vengo anch'io, no tu no, con Enzo Iannacci. E sì, è vero, però oggi, come avete visto, la voce squillante di Manrico, uno dei personaggi del Trovatore, con Di quella pira, una delle aree più note della trilogia verdiana, no? 1851 Rigoletto, 1852 Il Trovatore, appunto, da cui abbiamo sentito Di quella pira, e La Traviata poi l'anno dopo, quindi la triade forse più famosa della produzione romantica, o comunque tra le opere più famose di Verdi. E perché l'abbiamo messa? Perché la voce che interpretava Di quella pira, la voce di Manrico, è quella dell'ospite che oggi, a me personalmente, e immagino a voi in ascolto, fa un regalo straordinario stando con noi, ed è la voce di Andrea Bocelli, che è collegato con noi. Buongiorno, grazie maestro Bocelli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, spiego ai nostri ascoltatori. I nostri ascoltatori sono abbastanza abituati, una volta ogni X mesi, ad avere una trasmissione in cui, attraverso un protagonista della musica, ci prendiamo un respiro, per così dire. Facciamo una... esercitiamo il diaframma, per così dire, esattamente come fa chi canta tutti i giorni e tutti i momenti. Noi lo facciamo perché tentiamo di porci da un punto di vista laterale rispetto alla quotidianità con cui affrontiamo il giudizio degli mercati, tentiamo di spiegare a chi è in ascolto perché, per come la nostra economia è un problema che viene prima dall'euro, ma deve affrontare anche i difetti costitutivi dell'euro, e attraverso il successo, la passione, il talento di chi fa musica, tentiamo di capire come la vede lui del paese in cui vive, del mondo in cui vive, come ha costruito con caparbietà e con quali passi il successo che poi gli è venuto nella vita, e cosa pensa di poter quindi dire anche di come nel nostro paese il talento spesso purtroppo non si riesca a coltivare, non si premia abbastanza rispetto ad altri paesi. Ed è quello che oggi vogliamo fare, Andrea Bocelli. Oltretutto, per me il motivo anche di particolare gioia nell'ospitarlo è che è anche poi tra i firmatari di quell'appello che è uscito sabato su 6 giornali italiani, lo avete visto e ne abbiamo parlato ieri già, quindi non torneremo a parlarne oggi, l'appello che trovate sul sito www.fermareildeclino.it, e quindi Andrea Bocelli ha un'idea precisa di questo paese. Tuttavia cominciamo un secondo con Andrea Bocelli a parlare, per così dire, proprio di questo aspetto che finisce finisce per diventare, per chi poi non è molto tecnicamente versato nel capire il canto, o magari non ama troppo la lirica, o magari conosce Bocelli appunto solo e soprattutto per uno dei suoi aspetti fondamentali, cioè per il successo che poi ha avuto cantando straordinariamente un repertorio innovativo ma a cavallo, per così dire, tra la musica pop, la musica leggera e quella tradizionale e classica, e alla fine è diventato, da oramai 20 anni a questa parte, uno dei simboli dell'Italia nel mondo. I concerti che fa in America da molti anni, non solo nei teatri ma oramai a New York, in spazi aperti, sono concerti di successo travolgente. E io comincerei proprio di qua con Andrea Bocelli, cioè gli chiederei che cosa alla fine vuol dire per un artista di successo come lei questa specie di amore per l'Italia di cui finisce per essere un pezzo. Penso negli Stati Uniti è molto spesso così, per il successo che ha. Ha successo per quello che canta e come lo canta, ma ha successo perché è diventato una specie di colore aggiuntivo del tricolore italiano. Allora, alla fine, questo amore per il paese, che cos'è? Retorica? Nella sostanza concreta, che cosa significa per lei? Cosa è diventato nel tempo? Ma intanto mi lasci fare complimenti per la preparazione in campo musicale. Ma che? Lei, a differenza di me, lei è preparato anche in campo musicale. Ma non è vero. In campo vero. Economico e politico, insomma, lascio un po' a desiderare, nonostante i miei studi giuridici di tanto tempo fa. No, perché lei, mi scusi, questo poi non lo sanno in molti, ma lei stava finendo per difendere lo Stato, faceva l'avvocato dello Stato, l'aspirante avvocato dello Stato faceva. No, io mi sono fermato molto prima. Ho avuto in realtà uno zio che era avvocato di Stato, però io mi sono laureato nella mia città in giurisprudenza molti anni fa e poi col tempo ho dimenticato quasi tutto. Ciononostante, insomma, tutto quello che si impara poi alla fine torna utile nella vita. Perché era la famiglia che diceva, ma mica vorrai campare come... Insomma, beh, mio padre mi diceva, sì, il canto è una bella cosa, però bisogna sapere, non si può scommettere nella vita così a caso, bisogna fare qualcosa di concreto che garantisca. E siccome io avevo molti familiari avvocati, allora... La scelta è stata quasi forzata, no, forzata no, però è stata quasi così logica. No, perché capisco poi la bellezza di cantare la boemma, però che geli da manina, se non ha di che riscaldarsi nella vita, non è proprio il massimo. Insomma. Esattamente. Comunque, per rispondere alla sua domanda, diciamo che io credo che in Italia ci sia una scarsa percezione di quanto la nostra cultura sia amata all'estero. Forse il segreto, molto spesso mi chiedono qual è il segreto del successo che ho avuto in giro. Io credo che il segreto stia proprio nel fatto che ho cercato di essere italiano fino in fondo, senza andare a imitare, a scimmiottare quello che oltreoceano sanno fare meglio di noi. Quindi ho cercato di portare all'estero la melodia, la musica e farlo attraverso un dono che in realtà ho ricevuto dal cielo, che è la voce e basta. E questo fatto è sì, molto amato in America, ma non soltanto in America, perché devo dire che la musica italiana è amata in tutto il mondo, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda fino in Lettonia, per dire. Perciò di questo noi dobbiamo essere molto orgogliosi, non dimenticando che l'opera è nata proprio in Italia ed è nata a Firenze alla fine del Cinquecento, quindi è musica nostra a tutti gli effetti. Ora, uno dei rischi, lo dico essendo cresciuto con una madre che saluto, per fortuna Dio la conserva ancora, sentiamo poco, però perdona mia mamma, ma insomma mia madre era tradizionalmente molto attaccata al repertorio classico della canzone napoletana oltre che dell'opera, e io da piccolo, insomma, rispetto alla canzone napoletana avevo... diciamo, mostravo qualche intolleranza, per così dire, perché la consideravo a torto, però all'epoca io ragionavo così, eravamo a fine anni 60 del resto, ma qualche annetto fa, quindi c'era, insomma, un'evoluzione, un'accelerazione della storia, mi sembrava, e il vecchio repertorio della canzone tradizionale napoletana mi sembrava una specie di relitto, cioè un relitto, devo dire, un pezzo della storia d'Italia che rischiava agli occhi del mondo di eternarci nell'eterna visione un po' legata a un cantante storico, per esempio agli occhi di americani come Caruso, in cui eravamo pizza e mandolino. Poi uno cresce e capisce che naturalmente si tratta di contestualizzare, non c'è niente di male nella capacità di sapere offrire anche pizza e mandolino, purché si capisca che poi l'Italia è talento ed eccellenza che va avanti. Allora, questo aspetto, proprio quando si canta un repertorio che è misto, come nel suo caso, cioè quando si è avuto il fegato a un certo punto di saper affrontare chi la criticava perché diceva lei non farà mai un'opera vera, e poi è andato sull'assi del palcoscenico, non solo le ha incise, ma è andato sull'assi del palcoscenico e come si è cantato. Naturalmente poi andremo a vedere con che tipo di voce, che tipo di specializzazione, però l'ha fatto. Però quando si è a cavallo, il rischio che qualcuno dica eccoci qua, l'immagine classica del canto italiano all'estero, come si risponde a chi dice la tradizione finisce per eternare un pezzo di immagine d'Italia che in fondo è, sì, appartiene alla nostra storia, ma è oramai più un difetto che un punto, guardi, di eccellenza? Io credo che sostanzialmente alle polemiche si risponda meglio e più efficacemente con i fatti piuttosto che con le parole, perché alla fine le parole portano poco lontano. Però guarda, io proprio ieri casualmente ascoltavo Caruso che cantava il suo repertorio di grandi canzoni, proprio le grandi canzoni napoletane, no? E rimanevo esterrefatto di come quest'uomo già all'epoca riuscisse veramente a toccare l'anima con questa sua voce incredibile, capacità interpretativa. Perché il problema della canzone napoletana in genere è proprio questo, che essendo così bella, così penetrante, così forte, alla fine intanto è stata un po' maltrattata da tutti, nel senso che quando c'è una cosa bella tutti quanti hanno la tentazione di provarci, no? E poi perché probabilmente le cose troppo ascoltate alla fine vengono a noia, no? Ecco, sì. E questo è un destino che tocca a tutti. Sì, forse questo contava. Quindi, molto in me ragazzino. Per però non bisogna dimenticare che se sono venute a noia perché sono state ascoltate troppo, vuol dire che in fondo avevano un grande valore. Questo. No, poi è vero che ci sono anche parti della vita in cui quando si sente mamma sono molto felice, quando si è piccoli di solito si ha un conflitto aperto con le madri, un conto. Quando poi si cresce, esatto, magari si cambia idea, ecco, esatto, persino mamma. Il problema poi diventa questo, cioè lo scontro generazionale, no? Un bambino, un ragazzino cerca sempre la propria via, iniziando proprio col mettersi in contrapposizione con i gusti dei genitori e non so. Lei anche ha dovuto assecondare la famiglia fino a un certo punto. No, io fortunatamente ho avuto il problema contrario, siccome in casa mia non l'opera non era affatto apprezzata, e neanche le canzoni napoletane in modo particolare, nel senso che la mia è una famiglia non particolarmente vicina alla musica in generale, questo sembrerà strano ma è così, e in particolare poco vicina all'opera, quindi io non ho avuto affatto questo problema, anzi forse per distinguermi, per trovare un mio spazio ho cominciato, in realtà poi la musica mi ha toccato da subito e quindi è successo quello che è successo. Senta, andiamo a un punto su cui secondo me è giusto chiedere a chi ha tirato fuori il talento. Come dice lei è stato toccato, però il talento è qualcosa che oltre un dono poi bisogna sapere coltivare, e molti musicisti italiani, tra quelli che hanno raggiunto le vette o col proprio strumento o perché la guida di orchestre o perché hanno avuto e hanno coltivato la voce come ha fatto lei, secondo me a loro è giusto chiedere più che ad altri come mai il nostro paese sembra in questo terreno, quello del talento musicale, non riuscire a coltivare i talenti che ha, cioè che problema di fondo c'è, come è possibile intervenire secondo lei nel sistema dell'istruzione italiana su questo? Se ecco, pensiamo al Venezuela, no? Il Venezuela è un paese in cui apparentemente eccetera, con la musica hanno tirato su in piedi pezzi interi di proprie città che erano degradate e migliaia di giovani gli hanno dato una prospettiva. Allora, intanto il Venezuela è un caso particolare perché lì c'è stata l'iniziativa di un grande personaggio, un direttore che ha creato questa orchestra giovanile prendendo proprio i ragazzini dalla strada. Questa è stata un'iniziativa incredibile. Io dico che il problema in Italia che lei sollevava è relativo all'istruzione in senso lato, cioè la scuola italiana è stata, non dico distrutta, però ha subito sicuramente un grave colpo. Adesso non voglio voglio rischiare di entrare in polemica io con date, con fatti storici, eccetera, però è così, nel tentativo di così, forse credendo in perfetta buona fede di fare cosa buona e giusta per il paese, in realtà si è smantellato un sistema scolastico che era uno tra i migliori al mondo, e però non si è pensato a ricostruirne uno altrettanto efficiente, questo è il problema. Certo, ho l'impressione che il sistema pubblico, il sistema dei conservatori così stenti molto da questo punto di vista. Adesso proprio di questo periodo un tentativo di grande trasformazione, no, dei conservatori, esattamente non si è ancora capito dove si andrà a finire. Io ho i miei figli che studiano pianoforte, ad esempio, e uno sta cercando quest'anno di entrare in conservatorio, ma non si capisce bene esattamente cosa sarà una licenza, un diploma, una laurea in musica. Adesso cercheremo di capire questo. Ma lei cosa fa con i figli? Li incoraggia, li scoraggia? Se loro sono intimoriti per il successo del padre oppure sono critici? No, perché quando io torno a casa dai viaggi, eccetera, e il successo e la carriera stanno fuori dalla porta, e quindi divento esattamente un padre attento e che cerca di soprattutto di parlare con i figli. Il colloquio è fondamentale. In casa mia non c'è la televisione né la radio dove si mangia, dove si vive, ecco. C'è un posto apposta per andarla a sentire, però quando siamo a cena o a pranzo non ci devono essere distrazioni, bisogna parlare in casa, no? Quindi con i miei figli ho cercato di spiegare fin da subito che le cose nella vita vanno guadagnate, e per guadagnarsele c'è bisogno di sacrificarsi, di fare dei sacrifici che poi ripagano, perché le soddisfazioni sono belle, e quindi bisogna guadagnarsele. Quindi da bambini diciamo pure che li ho abbastanza costretti a studiare il pianoforte, non mi vergogno di questa cosa qui, perché non si può sperare che un bambino da solo ami mettersi sotto e accettare questa disciplina, che è una disciplina dura, quella dello studio della musica, bisogna saperlo. Però col tempo capisce che la musica è in grado di restituire tantissimo di quello che si è speso. Ha detto una gran cosa che non so quanto si renda conto sia violi uno dei principi di fondo, diciamo, da trent'anni a questa parte del più dell'impostazione educativa, o quantomeno del riflesso condizionato dell'impostazione educativa. Talvolta bisogna essere autorevoli nell'imporre ai ragazzi percorsi, tragitti e modalità, senza pensare che i talenti si sappiano autocoltivare, che il giovane debba scegliere lui, perché è così che si arriva a 27 anni senza essersi laureati. Ecco, trovo che sia importante ricordare che questo senso del relativismo, a cui qualcuno tempo fa ha fatto riferimento, il relativismo è una cosa pericolosa. Non è vero che si può far tutto, che si può dire tutto, che siamo liberi, cioè per essere veramente liberi bisogna tenere presente il fatto che esistono i diritti degli altri, che ci sono delle limitazioni imposte dalla logica della vita, e questo ai miei figli ho cercato di spiegarlo da sempre. Allora, sempre con la logica del padre che lascia il successo fuori dalla porta, come ha detto lei, e poi deve parlare con i figli, al ritorno, diciamo, dei viaggi di lavoro dall'estero in questi ultimi anni, gli anni in cui la crisi ha morso di più, è stata più intensa ed è ancora più intensa in Italia piuttosto che negli altri paesi avanzati. Noi stiamo perdendo ancora più punti di PIL della stessa Spagna, che pure ha un problema terribile di bolla immobiliare da rilineare che noi non avevamo. Però la verità è che l'Italia cresce prima meno degli altri, nella crisi cresce ancora peggio degli altri, ed è un problema che noi consegniamo un po' alle nostre giovani generazioni. Mentre la generazione di mio padre e mia madre, dalla guerra, dai sacrifici della guerra, hanno consegnato un paese in cui io, che vengo dal niente, comunque mi trovo ad aver fatto qualcosa, ad aver potuto studiare, ad aver potuto fare quello che ho fatto, in realtà la generazione nostra consegna un paese che intacca il patrimonio per difendere il reddito disponibile che è in diminuzione. E questa è esattamente la fotografia che, per responsabilità collettiva, anche lei sta in questo momento dando ai suoi figli. Allora, parlando parlando con i suoi figli di questo e vedendo quello che succede negli altri paesi avanzati, nei paesi emergenti, eccetera, quando torna in Italia rispetto alla condizione italiana, ecco, lei questa roba ai suoi figli come la spiega? Perché noi per una, tante ragioni abbiamo accettato di avere un complesso di scelte che ci fa crescere così meno degli altri e siamo così ingiusti nei nostri figli? Ma io credo che a volte per parlare di certi argomenti nello specifico bisognerebbe avere una preparazione specifica come lei ha. Io dico semplicemente che guardando il mondo con l'occhio attento di chi gira, credo di poter dire questo in senso molto generale. A mio parere la democrazia resta la miglior forma di governo possibile tra quelle che abbiamo conosciuto e sperimentato, ma al tempo stesso non è esente da problemi di fondo, da problemi che non, apparentemente non sono risolvibili, cioè la democrazia è fatta così, gli uomini che vanno a governare sono uomini che per andarci devono fare delle promesse e poi queste promesse vanno mantenute. Ora è chiaro che l'Italia quando è uscita dal disastro della guerra era una nazione povera fatta da persone che avevano sofferto, che sapevano soffrire, sapevano rimboccarsi le maniche, sacrificarsi, impegnarsi eccetera, ed è ovvio che in una situazione come questa non si può che assistere a una crescita vertiginosa, perché dalle ceneri di quello che era rimasto gli italiani hanno saputo costruire, costruire molto e costruire bene. Poi quando arriva il benessere, quando arriva, c'è stato il boom economico, come tutti sappiamo, e siccome l'uomo assomiglia molto spesso a dei bambini che finché sono sotto l'occhio vigile dei genitori si comportano bene, poi appena i genitori li lasciano liberi e finalmente loro possono assaporare quella libertà che hanno sempre sognato, immediatamente litigano, no? E questo è un po' un problema strutturale della democrazia a cui io ovviamente non saprei quali farmaci applicare. Però sì, è una bella diagnosi, per così dire. Il fatto è che in Italia, e non soltanto in Italia, in tutti i paesi, in molti paesi democratici ovviamente, si pensa molto ai diritti e poco ai doveri. Ci siamo dimenticati di pensare ai doveri. Questo è un fatto che il quale, se io dovessi suggerire un rimedio, sembrerò scontato, ma io credo che l'unico rimedio possibile lo si trovi in un libro molto, molto antico che risale a poco meno di 2000 anni fa, che sono i Vangeli. Quindi tanto non c'è via d'uscita a questa cosa qui. Io mi lasci dire una cosa, che un grande personaggio, una grande mente del XIX secolo, che è Tolstoi, diceva, parlando col figlio, perché il figlio gli diceva: "Babbo, tutti conosciamo il cristianesimo, però è difficile da mettere in pratica." E lui gli rispondeva molto semplicemente: "Ma come fa a essere difficile uscire da una stanza in fiamme dall'unica porta aperta?" E io credo che questa sia un'analisi estremamente lucida di quello che stiamo vivendo anche in questi giorni. Io per certi versi le augurerei con i suoi figli di riuscire a costruire un ambiente come quello di Krasnaya Poliana, dove appunto Lev Tolstoi per decenni poi si è costruito un vero e proprio mondo di riferimento intorno ai valori che lei sta dicendo. Certo, oggi il mondo purtroppo è collassato, funziona in termini diversi, però lei ha toccato due o tre punti sui quali mi permetto di dire: la coerenza tra le promesse e il fare. I discoli che quando non sono sotto pressione ovviamente dimenticano che ci sono i doveri oltre i diritti, e questo noi lo abbiamo proprio dimenticato. Chi vive di spesa pubblica a debito, come noi abbiamo fatto per decenni, fa esattamente quello che ha detto lei. Quindi, e poi terza cosa, l'uomo. Al centro l'uomo, che significa sussidiarietà, la persona, non le macchine pubbliche. In queste tre cose lei apparentemente dice: "Ma io non lo so, do delle ricette", però lei tocca dei punti di fondo, secondo ma me. Ma guarda, io ricordo che quando studiavo economia politica all'università, ricordo che mi insegnavano che l'economia è fatta a parabole, no? C'è una crescita, c'è un momento di stasi e poi c'è inevitabilmente la discesa. Alla fine la discesa diventa crisi, poi c'è la crisi e poi si ricomincia, no? Perché ovviamente la crisi di questi anni non è la prima e non sarà l'ultima. Poi crisi, forse vale la pena ricordare che viene dal greco krinein, no? Che vuol dire scelta, discernere, sì. Qui purtroppo amaramente bisogna dire che le crisi sono per certi versi da un certo punto di vista anche necessarie, perché servono a epurare il mercato da tutti quegli elementi, esatto, che anche in questo caso si erano accumulati. Su questo qui ci ascolta, come vi ho detto ieri, andate sul sito www.fermareildeclino.it, trovate 10 punti e mi esaminate se vi riconoscete in quella diagnosi anche di cura, di coerenza rigorosa di cura di cui abbiamo bisogno, non solo per la finanza pubblica ma per il talento e il merito di cui stiamo parlando oggi con il maestro Bocelli, per rimettere la formazione al centro delle priorità, ma dal punto di vista della qualità degli standard che deve saper offrire a chi la scuola la frequenta, l'università la frequenta, non dal punto di vista della priorità di chi nella scuola e l'università lavora per assumerli. Perdonatemi che questa è la scelta che abbiamo fatto purtroppo nel nostro paese. La domanda è: ma sì, va bene il dono, ma poi lo strumento quando è vocale, ma si coltiva, si può rendere flessibile, oppure è lui che comanda sull'animo e sulla mente? Il diaframma in realtà obbedisce o comanda lui? Allora, eravamo, questo è, non devo spiegarlo, ma per chi proprio si fosse distratto, con te partirò, siamo a metà degli anni 90 e attraverso questo brano, poi con le esecuzioni successive, l'arrangiamento con Sarah Brightman e così via, esplode nella maniera più clamorosamente internazionale in Gran Bretagna, in Germania e poi negli Stati Uniti, la popolarità, il successo, il riconoscimento al talento di Andrea Bocelli che è con noi qui. E parliamo di un punto che, non per rispondere alle critiche, ma per spiegare a chi è in ascolto, e magari non è molto versato nella tecnica musicale, non ha studiato musica, talvolta gli capita di leggere cose che sono invece vergate o dette ai microfoni o per televisione da chi fa il critico musicale, e magari poi si trova un pochino incapace di discernere, perché quando ci sono degli artisti a cavallo tra la straordinaria capacità di scegliere brani come questi e di portarli al successo nelle classifiche di tutto il mondo, e contemporaneamente poi si lavora serissimamente con altrettanta passione, altrettanta serietà sui palcoscenici e nelle sale di incisione per incidere opera lirica, ecco che c'è sempre qualcuno che si gratta la testa un pochino. E allora parliamo di come si coltiva la voce. Che cos'è la voce innanzitutto per un tenore? Che tipo di tenore è Bocelli rispetto ad altri? Io comincio facendo una domanda, perché delle incisioni, dei lavori che conosco, e credo più o meno di conoscerli tutti, almeno quelli incisi e quelli che ci sono su YouTube dai concerti del maestro Bocelli, io in particolare amo il Werther. Allora, il Werther in Italia è un'opera è poco conosciuta, non troppo apprezzata, per così dire, perché innanzitutto il repertorio francese, insomma, però io perché l'amo? Perché trovo che per i tenori che sono più tagliati per questo tipo di ruolo, Werther sia una specie di palestra di roccia. Io dico sempre a chi si sorprende perché la ascolto, perché nei diversi atti, mentre alla fine c'è un'area che a me purtroppo non so quanti si ricordino, Werther viene da ovviamente Goethe, e stiamo parlando di un dramma tragico romantico, di un amore che non si compie rispetto a Charlotte, di questo amante che alla fine si suicida, quindi una storia terribile dove la ragazza in realtà corrispondeva all'amore, ma deve corrispondere a una promessa fatta sul letto di morte della madre, quindi amore e morte, siamo nel pieno proprio dell'inizio dello Sturm und Drang romantico con Goethe, e quindi lui si suicida perché non corrisposto, la ragazza disperata, per così dire. All'ultimo atto c'è un'area che da ragazzino mi faceva piangere quando ero romantico anch'io, bei tempi, che tradotto in italiano sarebbe laggiù in fondo al cimitero, dove lui sta dicendo che vuole essere sepolto, che è un'aria che si canta come sempre quando si sta morendo, praticamente avendo i polmoni compressi, perché devi stare steso visto che stai morendo. Mentre invece nel secondo e terzo atto ci sono delle cose melodrammaticamente molto impegnative, mentre l'orchestra, la francese, pesta come una disperata, che non è facile cantare quando è così. Allora faccio questo esempio, mi perdoni maestro, ma in maniera tecnicamente un po' impropria, per far capire a chi è a casa, per dire che quando si canta il Werther, beh, vuol dire che insomma la voce si riempie riesce bene a padroneggiarla e a modularla. Lei in realtà quando è che si è posto il problema di quanti, da che punto a che punto di estensione di voce andava nelle due ottave con cui si misura di solito la voce del tenore? Ma guardi, io credo, ho detto spesso, che intanto ci si scopre cantanti quando è la gente che ti chiede di farlo. Io mi ricordo che già da ragazzino ero in collegio e molto spesso dovevo interrompere i miei giochi perché qualcuno mi chiedeva di cantare. Molto spesso erano gli assistenti, no? I nostri sorveglianti, molto spesso i maestri, molto spesso anche proprio i miei compagni. E questo mi fece capire che probabilmente il mio destino sarebbe stato nel canto. Poi chiaramente poi il resto lo fa il destino di ciascuno di noi, le occasioni, le opportunità, eccetera. Il mio primo palcoscenico è stato il camino della cucina di casa mia, dove spesso mi toccava salire quando arrivavano amici e parenti, perché venivo praticamente obbligato a cantare sempre, quindi ho capito ben presto che mi sarebbe convenuto cercare di imparare a fare questa cosa al meglio. In realtà poi quando, insomma, la voce è uno strumento a tutti gli effetti, con l'unica particolarità di essere uno strumento in carne ed ossa, quindi con questa particolarità che mentre gli altri strumenti, se li usi male o li usi troppo, si rompono, li puoi ricomprare, lo strumento della voce è unico e quindi bisogna rispettarlo. E come diceva uno dei miei grandi maestri, che era Franco Corelli, a cui sono stato profondamente legato, prima proprio come fan, poi come allievo, lui diceva: il canto si studia pensando, no? Perché quando hai finito di studiare bisogna che con la mente rimani lì a pensare a quello che hai fatto, come si potrebbe far meglio. Quindi pensando 24 ore al giorno a questa cosa, che poi alla fine diventa come una mania, forse si riesce a ottenere qualche risultato. Lei ha fatto, per esempio, ha fatto Cavaradossi, ha fatto la Tosca. Ecco, nel campo, quando c'è una voce comunque, e quando c'è un talento vocale, diciamo così, esistono anche dei problemi annessi e connessi, perché si impara a cantare col tempo, si impara a cantare strada facendo, perché quando si è giovani la voce esce lo stesso, anche se si sbaglia, anche se si compiono errori tecnici, ed è difficile correggerli, succede che comunque in qualche modo il fisico ci mette una pezza, no? Si riesce comunque a cantare. Poi strada facendo o si impara o si smette. Io sento spesso questo luogo comune in teatro, sento spesso dire: questo cantante o quell'altro hanno smesso di cantare perché hanno sbagliato il repertorio. Io difficilmente entro in polemica, però colgo l'occasione per dire che mi viene un po' da ridere in queste cose qui, perché la realtà è che si smette di cantare perché non si è mai imparato a cantare, perché i grandi cantanti del passato ci hanno dimostrato che cantando da Barbiere di Siviglia a Otello, come ha fatto Lauri Volpi, per dire una cosa, si arriva a cantare fino a 80 anni e passa, e quindi vuol dire che la voce non si consuma purché si adopri in modo corretto. Poi è chiaro che oggi esiste una sorta di specializzazione nel campo del repertorio operistico, no? Ecco, che un tempo non c'era. Che un tempo non c'era e oggi purtroppo c'è, perché quando non c'era si poteva ascoltare uno Chenier che aveva la voce di Beniamino Gigli e uno Chenier che aveva la voce di Mario del Monaco, di Franco Corelli. Aspetti, perché dobbiamo però fermarci un secondo, perché chi è a casa non è detto che ci stia seguendo e ci prende un po' per matti. Negli esempi che stiamo facendo ci sono degli esempi di opere e di parti, ovviamente di protagonisti di opere, di repertorio, in cui tradizionalmente, per così dire, nella diversa specializzazione del ruolo del tenore, ci sono delle opere che per definizione appartengono a quello che si chiama tenore leggero, per così dire, o di grazia addirittura. Per esempio tutto il repertorio di Donizetti, l'Esir d'Amore, Nemorino, il Don Pasquale con Ernesto e così via. Poi ci sono delle opere per i tenori lirici che sono un po' una voce più calda, che ne so, il Rigoletto di Verdi o Germon nella Traviata. Poi salendo ulteriormente ci sono dei ruoli e delle opere, per esempio Cavaradossi nella Tosca, in cui il tenore lirico diventa un po' più spinto, diventa più drammatico, quindi l'estensione della voce, e poi alla fine ci sono le voci tonanti, per così dire, l'Otello, che tutti ricordano, non lo so, per esempio Del Monaco, le esultate di Del Monaco, esatto, che era una roba che tremavano i vetri, per così dire. E temo che siamo entrati in un campo minato, perché per spiegare, per far capire al pubblico che non è abituato a venire in teatro, non conosce queste cose, ci vorrebbe un po' di tempo per spiegare tutto questo. Però diciamo che questo è un vizio, per far capire bene a tutti, che si è riverberato anche poi nella musica contemporanea, anche nella musica pop, perché ad esempio, non so, tutti abbiamo sentito canzoni importanti come le canzoni di Concato, ad esempio, le abbiamo sentite sempre solo da Concato, le canzoni di Morandi le abbiamo sempre sentite quasi soltanto da Morandi. Invece sarebbe una volta succedeva che Beniamino Gigli cantava Mamma son tanto felice e poi era bella, la cantavano tutti. E ci sono interpretazioni di Mamma di Luciano Pavarotti e me, anche mia, insomma. Quindi per dire che purtroppo nel tempo si è creata una specializzazione rigorosa nel campo dell'opera, per cui ognuno canta le sue opere e questo rende meno vario, meno divertente, meno interessante, no? Perché ogni voce ha le sue bellezze, ogni voce ha il suo fascino, insomma. Quando una voce entra nel cuore della gente significa che ha qualcosa. E quindi è bello ascoltarla in repertori diversi, non sempre nelle solite cose. Però ecco, tornando a Werther, prima per dire una cosa, è vero quello che lei ha detto, perché Werther è un'opera estremamente complessa, perché richiede una voce piuttosto lirica, se non leggera nel primo atto, e a strada facendo l'orchestra diventa sempre più forte, più grande, e l'intenzione e l'espressività più drammatica, si arriva al penultimo atto in cui veramente ci sarebbe bisogno di una voce quasi eroica, e poi si torna a cantare l'ultima scena, come lei diceva giustamente, sdraiato per terra. Io ho cantato due produzioni di Werther, una in America e una in Italia sotto la direzione di Liliana Cavani. L'unica differenza è stata che la Cavani mi ha fatto morire in un cinema la vigilia di Natale, mentre la regia americana era una regia più tradizionale, no? Però in entrambi i casi ho dovuto morire sdraiato per terra cantando così. E questo è una delle cose che ti impone di imparare a cantare, perché finché si canta in piedi, comodamente posizionati come meglio si preferisce, è un conto. Poi se il regista ti chiede di cantare sdraiato oppure in qualche strana posizione, perché succede di tutto, allora bisogna imparare a usare lo strumento in modo bene imparare a usare lo strumento. Quindi insomma, il diaframma non sempre comanda, ma più spesso obbedisce, e questo mi sembra un'ottima sintesi. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e l'ultima parte la faremo con il maestro e con il presidente della fondazione Andrea Bocelli, perché una parte fondamentale del talento è restituire il successo che si è avuto agli altri, per gli altri, con l'economia del dono, su ottimi progetti scelti per aiutare chi ha bisogno. Eccoci qua, la mattinata di un cavallo, naturalmente sempre nella voce di Andrea Bocelli. Ci ha raggiunto appunto Laura Biancalani, che è presidente della Andrea Bocelli Foundation. Allora Laura, ci spieghi quando è nata, che progetti avete sotto mano, a chi vi rivolgete per raccogliere, con quali criteri scegliete i progetti per dare una mano a chi ha bisogno? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno a lei dottor Giannino e buongiorno Andrea. Mi fa strano sentirlo a telefono per radio. Allora, la fondazione è nata proprio un anno fa, è stata riconosciuta poi dalla prefettura di Pisa a novembre e l'abbiamo inaugurata a fine anno, quindi è una fondazione assolutamente giovanissima. È una fondazione italiana, nonostante che appunto il primo appuntamento e il primo momento di visibilità lo abbiamo avuto appunto a Los Angeles in America nel corso dell'inaugurazione di una mostra proprio del maestro. La forma giuridica e la sede prescelta devo dire che testimoniano l'attaccamento del maestro proprio al nostro paese, perché nonostante i vincoli e la burocrazia che spesso Andrea non riesce a capire e a condividere, specialmente in ambito di filantropia, ha scelto e voluto che la fondazione fosse assolutamente italiana. È una fondazione prevalentemente erogativa, quindi si occupa appunto di sostenere dei progetti in due programmi particolari: un programma che si chiama SIDE, che opera nell'ambito della ricerca scientifica, tecnologica, innovazione sociale, e che ha, diciamo che è forse il programma che più assomiglia al maestro, perché ha, appunto, mira a raccogliere delle sfide importanti, innovative, dei progetti visionari addirittura, progetti che nessun altro se non il privato sociale potrebbe sposare, progetti in cui nessun altro che il privato sociale potrebbe investire anche per la rischiosità degli stessi. E in questo programma, in questo momento, stiamo lavorando con l'MIT di Boston, perché appunto Andrea ha lanciato una sfida a sei scienziati che operano ognuno in un campo diverso, per cercare di trovare un device che renda completamente indipendenti i non vedenti nel movimento. E appunto intorno a questo lavoriamo non solo con l'MIT di Boston, ma ci sono altre quattro università italiane che dal 6 luglio in qualche modo lavorano con noi per spingere il più possibile verso un risultato e per portare anche l'ingegno italiano in America e aiutare questa famosissima università e questi sei ricercatori a trovare il prima possibile appunto questo una device. Soluzione per questo device. E come si può concretamente assumere informazioni sull'attività della fondazione, qual è il sito e come si può sostenerla? Sì, allora c'è poi tutto un altro programma sulla Reduction Poverty di cui potrete sapere di più sul sito, che è www.andreabocellifoundation.org. Poi sul sito trovate tutti i nostri numeri di telefono e potete sostenere appunto la fondazione in diversi modi, sia attraverso donazioni dirette appunto di denaro, ma anche sul sito lo troverete attraverso la prestazione, la donazione sia di lavoro che di idee alla fondazione, perché appunto siamo assolutamente convinti che il modello della sussidiarietà sia un modello di organizzazione economico-sociale essenziale e di sviluppo per il nostro paese, e quindi vogliamo assolutamente non disperdere nulla di quello che Andrea ha generato, soprattutto i rapporti e le idee delle persone, e quindi siamo qui pronti ad accoglierli. Anche perché appunto pensiamo, dottor Giannino, che vorremmo operare in qualche modo identificando e capendo i problemi piuttosto che appunto individuare i problemi che si adattano a soluzioni come spesso viene fatto. Allora, io condivido anche i giudizi che ha dato Laura Biancalani sul fatto che il nostro ordinamento è costruito apposta per ostacolare più che incentivare invece l'economia del dono dal punto di vista del riconoscimento dell'incentivo fiscale a questo, come per esempio il sostegno che i privati potrebbero dare al nostro patrimonio artistico, culturale. Bisogna equiparare e aumentare il rapporto di incentivo fiscale non solo per le donazioni ma anche per le sponsorship, per esempio in questo campo, invece che ispirarsi al principio della diffidenza che la macchina pubblica ha nei confronti dei denari dei privati, che servirebbero per la messa a reddito del nostro patrimonio che viene abbandonato dall'incuria, inefficienza e clientelismo della macchina pubblica. Ma io non voglio fare i miei soliti discorsi su questo, dico che il patrimonio culturale artistico italiano è un altro enorme capitolo che lo Stato dissipa invece di essere capace di metterlo a reddito, perché potrebbe attirare milioni di italiani. Ad Andrea Bocelli chiedo invece, per lui il limite alla vista cosa è stato? Uno stimolo? Ma forse il mio segreto è stato quello di non averci mai pensato, ho avuto anche in questo, devo dire, una famiglia molto attenta, molto presente, quindi è un problema, se problema si può definire, che ho dimenticato da subito, considerando che poi ciascuno di noi ha dei limiti, ce li abbiamo tutti. Se ammettiamo di correre tutti quanti molto meno di Bolt, vogliamo ammettere che notiamo tutti molto peggio di Phelps, eccetera, eccetera, vuol dire che ciascuno di noi ha dei grossi limiti e bisogna imparare ad amare quello che si ha piuttosto che mettersi lì a piangere su quello che non abbiamo. Cioè, è importante sapersi autovalorizzare, no? Cioè, valorizzare quello che abbiamo, perché fondamentalmente la vita è un grande dono, è il dono dei doni, e vale veramente la pena di vivere comunque vada. dalla vita bisogna trarre veramente gli spunti importanti per vivere serenamente, ecco. La serenità è il più grande dei beni, secondo me. Lei ha ricordato il suo maestro, no, Corelli. Suo maestro, quando le fece capire che si poteva abbandonare il giusto atteggiamento di scetticismo nei propri talenti e che invece lei avrebbe avuto il successo che ha avuto? Ricordo che l'ha fatto non direttamente ma indirettamente, scrivendo un articolo sulla Stampa di Torino, dove veniva intervistato su questo masterclass che lui aveva tenuto a Torino. E aveva detto qui c'è un talento. Sì, aveva detto, ho sentito molte belle voci, ma in particolare sono rimasto commosso dalla voce di un giovane tenore, eccetera, eccetera. Allora, è con questo giovane tenore che noi dobbiamo salutare Andrea Bocelli e Laura Biancalani. Io ringrazio il maestro, a tutti voi in ascolto. Trovate la sua firma anche sull'appello su www.fermareildeclino.it. A domani, grazie maestro.